Io le trasmissioni di economia e finanza come la vostra le odio, però voi due siete troppo simpatici. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male, pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore. Un simpatico omaggio floreale, cara Deborah, come stai? Buongiorno, tutto bene, grazie. Guarda, come ho pensato, mai sei così romantico in partenza stamattina? Ma ho pensato di lenire un po' anche il tuo disappunto, immagino, per la serata calcistica di ieri sera, che forse non è stata delle più felici per i tuoi colori. No, così. Guarda, io non l'ho guardata la partita, ma sentivo delle urla impressionanti nel mio palazzo, quindi ne ho dedotto che abito in uno stabile pieno di milanisti. E così, questa è un po' la situazione mia, un po' infelice, e quindi dovrò anche ristrutturare questo palazzo, fargli fare un salto di qualità, non solo energetico, ma anche calcistico, magari. Che ne pensi? Vediamo se riesci a prendere il 110%. Intanto ti dico che dall'altra parte del vetro ridacchia sotto la mascherina, si capisce benissimo, anche Peter Bescapè. Proprio immagino. Si coglie, ride della, persino la sua mascherina. E naturalmente è provvista di mascherina, ma sempre affascinante, anche la nostra Elisabetta Baba Fusconi, quest'oggi badante di prossimità, a ciò preposta con la supervisione dell'ottimo Marco Lombardo. Sì. Hai fatto bene a parlare. Ma Pizzi non voleva introdurci al calcio, immagino. No, voleva introdurci da una parte all'argomento del giorno. Oggi parliamo delle professioni, perché mercoledì parliamo di lavoro, del 110%, quindi tecnici e 110% in qualche modo. Ma la notizia dei fiori era ancora legata al lockdown, insomma alla quarantena, esatto. Insomma alla fase 1, insomma a quello che volete voi. La sostanza è che ieri sono stati diffusi dei dati preoccupanti, sono saltati complessivamente 70.000 matrimoni e la floricoltura ha dovuto dire addio a 200 milioni per il rinvio dovuto a coronavirus delle nozze programmate per il periodo appunto della quarantena, del lockdown a cui siamo stati costretti dal coronavirus. E sono saltate in realtà anche molte nozze che erano state programmate post lockdown, cioè quando comunque si è potuti tornare a girare, a uscire, però ormai diciamo queste cose che vengono programmate con molto anticipo erano state già rinviate. Poi naturalmente bisognerebbe tener conto non solo dei matrimoni, ma anche delle tutte le altre cerimonie che non sono state festeggiate, magari si sono tenute ma non si sono festeggiate, che so, le comunioni, le cresime, tutte le varie cerimonie appunto di tipo civile o religioso. Niente fiori, che si dice niente fiori ma opere di bene, qui per adesso siamo rimasti al niente fiori, così appunto ha purtroppo dovuto annotare la floricoltura italiana. Tra l'altro, Mauro, mi risulta che nel decreto rilancio ci sia anche un bonus matrimonio che introdurrebbe una detrazione per le spese che si sosterranno dal 1 gennaio dell'anno prossimo, convincendo così a rimandare la cerimonia all'anno prossimo tutte quelle 120.000 coppie, si calcola, ancora indecise sulla possibilità di sposarsi o meno nel secondo semestre di quest'anno. In realtà questo provvedimento sarebbe già stato anche emendato, ancora non ne conosciamo la versione definitiva, ma in ogni caso abbiamo anche questa incertezza. Chi magari riducendo il numero degli invitati appunto vorrebbe in ogni caso sposarsi quest'anno, forse alla luce di questa possibilità di avere un piccolo beneficio fiscale, potrebbe rimandare anche la propria cerimonia, per cui diciamo che quest'anno insomma è l'anno nero davvero dei matrimoni, ma non, a parte tutte le separazioni che si sono consumate perché vivere insieme in lockdown, ce lo raccontano i matrimonialisti, non è stata proprio una passeggiata di salute, ma in realtà poi tanti matrimoni appunto saltano proprio anche per le questioni di distanziamento, che ovviamente comportano una festa più limitata, e quindi molte coppie ovviamente dispiaciute ci rinunciano direttamente. O vediamo magari un po' l'anno prossimo se sarà possibile. O magari Deborah, qualcuno ha anche preso l'occasione, qualcuno non era convinto. Così, ah no, dici che non c'è questa eventualità, non lo so. Allora, noi abbiamo il nostro giornale radio del risparmio che già incombe, sì, ma poi sì, parleremo appunto di professioni del 110%, questo 110% che, come sappiamo, sta prendendo forma, nel senso che, lo ripeto già in apertura, dal 1 luglio le spese possono ambire a utilizzare questo tipo di detrazione, ma mancano ancora sia la versione definitiva della norma madre, perché è affidata a un decreto legge che deve ancora essere convertito in legge, sia tutte le norme applicative. Quindi sappiamo i contorni più o meno, però mancano una serie di precisazioni, tra cui quelle tecniche che andremo poi ad esplorare con i professionisti di questa mattina. 800 24 0024 è il numero verde, 349 238 6666 il numero per inviare sms o messaggi WhatsApp. Tutto ciò premesso, giornale radio del risparmio. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo me a Zerushani. Allora Mauro, chi inizia? Vogliamo ricordare questa notizia che stamattina è su tutti i giornali. Sì, che è su tutti i giornali ed è l'ennesima così conferma della stagione difficile che tutti quanti stiamo affrontando, perché Banca d'Italia tra la fine di aprile e inizio di maggio ha condotto un'indagine straordinaria sulle famiglie italiane per raccogliere informazioni sulla situazione economica e sulle aspettative durante la crisi. Allora, oltre a un diffuso calo nei redditi, cosa non sorprendente verrebbe da dire, si è rilevato che più di un terzo degli individui dichiara di disporre di risorse finanziarie per meno di 3 mesi per coprire le spese per consumi essenziali della famiglia se non arrivano altre entrate. Quindi un periodo in qualche modo che è ancora compatibile con la durata del blocco, del lockdown, come abbiamo imparato a chiamare, legato all'emergenza Covid. Una quota che supera però il 50%, naturalmente, se parliamo di disoccupati o di lavoratori dipendenti ma con contratto a termine. Poco meno della metà degli individui ha dichiarato che prima della pandemia arrivava comunque a fine mese già con difficoltà. Quasi il 40% delle persone che sono indebitate ha dichiarato di essere in difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa della crisi. Insomma, una fragilità economica diffusa che si estende poi naturalmente a coloro anche che hanno un finanziamento per credito al consumo, e anche qui un terzo delle famiglie è in difficoltà. Quindi tutta una serie di, verrebbe da dire, un bollettino post bellico più che un bollettino di guerra, proprio di danni fatti dal coronavirus e di questa fragilità che è emersa e che vediamo emergere giorno dopo giorno come esito del coronavirus. Il lavoro è di Banca d'Italia, un'indagine tra fine aprile e inizio maggio. Speriamo che le settimane trascorse da quel momento abbiano portato un po' più di ottimismo. Tra l'altro l'indagine e i dati messi nero su bianco dalla Banca d'Italia sono dati che naturalmente noi avevamo avuto modo, Mauro, no, di constatare direttamente dalle parole e le testimonianze dei nostri ascoltatori, che di questa difficoltà ci raccontano già dall'inizio di marzo, lo abbiamo detto tante volte. Questa è una settimana, oltre a questa indagine della Banca d'Italia, molto ricca per quello che riguarda la diffusione di osservatori molto interessanti, dai quali noi trarremo tanti spunti per continuare ad affrontare la tematica complessiva dell'educazione finanziaria degli italiani. Cominciamo intanto con quello che succede tra un po'. Dalle 12 in avanti verranno diffusi i dati di una ricerca Doxa condotta per il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria, quel comitato guidato da Anna Maria Lusardi, che ospitiamo tante volte a Due di Denari e torneremo ad ospitare anche venerdì prossimo. Emergenza Covid-19, le famiglie italiane tra fragilità e resilienza finanziaria, questo è il titolo dato dato a questa indagine. Di fronte ve ne anticipo solo una parte, poi nel dettaglio appunto l'indagine sarà diffusa più tardi e noi la racconteremo bene bene venerdì. Di fronte alla domanda: il tuo reddito ti permette di arrivare a fine mese? Il 45% delle famiglie italiane ha dichiarato che prima dell'emergenza arrivava a fine mese con difficoltà, alcune e molte. Dopo l'inizio dell'emergenza e fino al momento in cui è stata effettuata la rilevazione, le difficoltà sono aumentate in misura significativa. La percentuale di famiglie che arriva a fine mese è salita di ben 12 punti percentuali. L'emergenza Covid ha quindi innalzato e portato quasi al 60% la quota delle famiglie italiane che non riesce a giungere alla fine del mese con serenità. E quindi i temi che affrontiamo noi anche come educazione finanziaria, che non significa solo educazione alla scelta degli strumenti di investimento, ma significa, Mauro lo ricorda spessissimo, educazione a gestire bene le proprie spese, quindi il rapporto fra entrate e uscite individuali e della famiglia. E quindi anche alla luce appunto di queste evidenze di cui vi stiamo raccontando, noi vi stresseremo ulteriormente su questi aspetti, perché ci sembrano in questo momento più che mai importanti e delicati. Mauro. Molto importante anche tutto quello che è successo per quanto riguarda l'ambito normativo del lavoro. E allora, con il Sole 24 Ore oggi trovate una guida realizzata, devo dire, a tempo di record. Il lavoro dopo il Covid serve a riepilogare le regole che sono state via via diffuse, riviste, integrate, modificate per quanto riguarda, ad esempio, ammortizzatori sociali, quindi stiamo parlando di cassa integrazione, indennità varie, gestione dei rapporti di lavoro, blocco dei licenziamenti, modifiche al cosiddetto decreto dignità. Insomma, ci sono stati molti cambiamenti anche temporanei, cioè a termine, per quanto riguarda le norme sul lavoro, il modo di lavorare. Ovviamente sappiamo tutti, siamo passati spesso al telelavoro, qualcuno allo smart working, magari i più al lavoro da casa. Ecco, tutto questo è stato riassunto dal Sole 24 Ore in un fascicolo che trovate oggi in edicola insieme al Sole 24 Ore. Allora, ricorderete, mi rivolgo agli ascoltatori, che qualche settimana fa, tra le puntate del mercoledì, ha trovato spazio anche l'argomento della sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari. Lo ricorderete, appunto, questa misura prevista nel decreto rilancio, che avrebbe l'obiettivo intanto di sanare la posizione in Italia, di far emergere dal lavoro nero soprattutto quei lavoratori impiegati in agricoltura, nella pesca, la grande battaglia del ministro Teresa Bellanova, come ricorderete. In realtà, indagando un po' sui tassi di adesione a questo provvedimento, a questa sanatoria, scopriamo che non sono proprio i braccianti a fare richiesta di regolarizzare la loro posizione in Italia. La corsa alla sanatoria risulterebbe in questo momento solo di successo per i collaboratori familiari e le colf. Nel primo mese di applicazione del provvedimento sono state inviate, infatti, lo racconta anche in questo caso il Sole 24 Ore questa mattina, oltre 80.000 domande, l'88% nel lavoro domestico, dove si registra un tasso di irregolarità pari al 58,3%, appena 8.310 domande invece arrivano da rapporti di lavoro subordinato in agricoltura e solo 54 nel settore della pesca. Questo è l'identikit di chi aderisce alla procedura di emersione del lavoro nero, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per gli extracomunitari clandestini in base agli ultimi dati diffusi dalle Viminali e il Ministero dell'Interno sulle domande che sono state inviate dal 1 al 30 giugno. La sanatoria comunque resta aperta fino al 15 agosto. La stima iniziale di 220.000 richieste sembra in ogni caso piuttosto lontana. E allora andiamo un po' più sul tema del lavoro diciamo così di tipo chiaro, ecco, che già emerso. Perché forse, Deborah, utilizzando la nostra sigla abituale del mercoledì, dov'è il nuovo lavoro? Forse il nuovo lavoro sarà nell'auto. So che dirlo adesso con i dati delle immatricolazioni in picchiata sembra, diciamo, un pochino coraggioso, per non dire di peggio, però oggi su Punto Lavoro, nelle pagine appunto del Sole 24 Ore, si segnala come l'auto elettrica, soprattutto la fabbricazione di auto elettriche, stia cercando tutte blu, cioè si fa per dire operai metalmeccanici, perché qui parliamo di softwareisti, parliamo di ingegneri, insomma, servono metalmeccanici, verrebbe da dire 4.0, e c'è chi scommette che dopo il tonfo dato dalla emergenza Covid le vendite torneranno a crescere, perché qualcuno ricorda che dopo la crisi globale avviata nel 2008, nel 2012 c'era stato un rimbalzo molto forte delle vendite di auto e quindi torneremo a comprare auto, ma andando verso l'elettrico. Questa è la previsione, quindi lì dovrebbero crearsi occasioni di lavoro. Speriamo lì e anche altrove, naturalmente. Abbiamo un rapido... Prego? Sì, no, volevo solo fare una piccola postilla. D'altronde ti ricordi quello che abbiamo raccontato a Wall Street, cosa sta succedendo su Tesla, che praticamente ha una capitalizzazione di borsa enorme, miliardaria, che supera quella di tutte le società leader dell'automotive messe insieme, delle più grandi. Per cui anche quello è un segnale che ci racconta come sta sviluppandosi questo settore, e quindi è evidente che lì ci saranno delle opportunità professionali interessanti e pronte ad essere colte. Scusami, volevi aprire il nostro sportello, la nostra bottega? Volevo ricordare che abbiamo anche oggi un dillo a due di denari e poi andiamo più senza por tempo in mezzo a Dov'è il nuovo lavoro, ma prima di. Dillo a due di denari. Buongiorno, io fortunatamente avevo già chiesto l'ISE a marzo, mi sembra, per avere i sussidi dell'asilo nido di mio figlio, quindi ho scaricato l'app, avevo già lo speed, bonus vacanze ottenuto in 5 minuti. Penso che mi serviranno 5 mesi per trovare una struttura che si degni di accettarlo. E siamo un nucleo familiare con figlio, quindi l'importo è quello massimo. Io lo so, Deborah, che questo bonus vacanze sarà nostra, posso dire, croce edilizia fino a probabilmente fino al 31 dicembre, perché per carità abbiamo detto è un po' difficile da chiedere, ma molti ascoltatori ci hanno scritto no, non è vero, invece è abbastanza facile il percorso. Poi abbiamo segnalato, ma forse c'è un po' di resistenza da parte delle strutture, e qui arrivano conferme da una parte e dall'altra, alcuni dicono sì, è vero, è così, altri dicono invece no. Insomma, vedremo, ne torneremo a parlarne. Adesso non è il momento, perché invece è mercoledì ed è il momento di Dov'è il nuovo lavoro? Dov'è il nuovo lavoro? Io voglio fare l'asseveratore. L'asseveratore? Ma sì. Dove si studia asseverologia, se esiste la cattedra? Guarda, chiediamola alle nostre amiche di questa mattina, che sono assolutamente molto più competenti di noi per raccontarci effettivamente quelle che noi abbiamo ribattezzato le professioni del 110%, perché questo è un incentivo fiscale veramente molto goloso per tanti, non solo per i contribuenti che se ne potranno avvantaggiare, ma chiaramente anche per tutto il mondo delle imprese che adesso nel settore edilizio potranno rimettersi in gioco per ovviamente riqualificare il nostro patrimonio edilizio già vecchio, già oggetto di tanti lavori di manutenzione straordinaria negli anni passati, ma è chiaro che adesso alla luce di questo beneficio fiscale i lavori potranno partire in maniera ancora più intensa. Il punto è che però bisogna che ci si rivolga a professionisti capaci di metterci anche un po' ordine nella testa, Mauro, perché qualcuno con un po' di equivoco è partito un po' troppo frettolosamente, sostenendo per esempio che lo Stato paga tutti i lavori, che è molto facile insomma fare un'operazione di questo tipo nell'edificio in cui si abita, ma in realtà poi capiamo che è bene che siano soprattutto i condomini ad essere interessati ai lavori di questo tipo. Per una singola abitazione l'incentivo da raggiungere è un pochino più difficile, c'è tutta la questione di insomma abbiamo bisogno di professionisti che ci chiariscano le idee. Chi abbiamo chiamato oggi? In rigoroso ordine alfabetico do il benvenuto a due denari a l'architetto Daniela Petrone, che è vicepresidente di ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico. Benvenuta a due di denari. Buongiorno. E poi con lei Maria Chiara Voci, collega del Sole 24 Ore, esperta di queste tematiche soprattutto sì, legate agli aspetti tecnici delle professioni, quindi tutte le professioni di natura tecnica. Dico bene Maria Chiara o ti sto facendo torto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, da dove vogliamo partire, Deborah? Perché qui bisogna appunto, guarda, come dicevi tu... Guarda, partiamo da Maria Chiara, perché sta indagando proprio su questo tema e quindi le abbiamo anche un po' rubacchiato il lavoro. In realtà vorremmo proprio che ci raccontasse che cosa sta scoprendo rispetto a tutte quelle professionalità che in questo momento devono sostenere e aiutare i cittadini nel avere intanto chiara la norma, e noi potremmo anche aiutare noi di Due di Denari un pochino, non appena l'avremo definitiva nero su bianco, però immaginiamo appunto che anche il quadro delle competenze di cui abbiamo bisogno in questa fase sta ampliandosi in qualche maniera. Maria Chiara, intanto, buongiorno, che cosa state scoprendo? Allora, assolutamente sì, Deborah, stiamo facendo appunto con il Sole 24 Ore del lunedì, stiamo cercando di fare un approfondimento per capire quali saranno le professioni in gioco e quali profili che ci aiuteranno. Chiaramente c'è molta attenzione, anche tantissimi incontri che si rincorrono per capire una norma che non è ancora arrivata al suo punto finale, quindi avrà ancora dei cambiamenti in corso. Le figure che in campo sono tante. Diciamo che questo super bonus davvero coinvolge tutta la filiera e se noi dovessimo cercare di fare ordine, come dicevi tu prima, pensando dalla prima all'ultima figura, allora a partire dai progettisti che dovranno fare degli ottimi progetti, anche capaci di andare al di là di ciò che la norma chiede, poi ci saranno tutta una serie di figure tecniche che sono chiamate a intervenire, come ad esempio coloro che fanno le diagnosi e che in qualche modo vanno a vedere come sono composti gli edifici, vanno a fare le stratigrafie per capire come sono stati costruiti e quindi si trova poi un sistema magari di isolamento o il sistema migliore per far sì che questo bonus, super bonus, venga usato correttamente. Poi, hai detto bene, l'asseveratore, una figura molto importante perché ci saranno tanti tecnici che dovranno, ne parlerà poi la dottoressa Patrone dopo, chiaramente confrontarsi con quello che è il tema delle certificazioni energetiche, del rilascio delle certificazioni energetiche per questo bonus. Questo bonus chiede di salire di due classi almeno nella normativa, secondo la normativa statale, ma si potrà fare molto di più. Il compito dell'asseveratore sarà quello di certificare in un certo qual senso che tutto il processo sia stato fatto bene. E poi una curiosità che sta emergendo e che molti mi stanno rispondendo, che ci vorrà anche un buon consulente legale, e questo soprattutto per i grossi lavori, i lavori di condominio come citavi tu, e questo mi ha stupito un po', però siamo in presenza di una norma che non è ancora così definita, ha alcuni aspetti critici, alcuni aspetti controversi, e quindi c'è chi dice meglio capirla bene prima per non fare errori dopo. Bisognerà vedere quali imprese si potranno poi veramente dotare di una figura di questo tipo. Ecco. Io lo dico sempre, Deborah, bisogna leggere religiosamente le pagine di norme e tributi, però possiamo anche ascoltare avidamente i tuoi aggiornamenti dai mercati finanziari, cioè la borsa. Soldi buttati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Cara Deborah, io avrei una domanda per l'architetto Petrone, perché credo di aver capito una cosa. Nell'attesa che tutto il quadro normativo si completi nella sua meravigliosa sintesi, però forse è il momento già di contattare in anticipo qualcuno dei professionisti che ci ha ricordato prima Maria Chiara Voci. Cioè, insomma, specialmente per quanto riguarda la valutazione dello stato energetico dell'edificio, insomma, gli interventi che si possono fare o non fare, forse potrei cominciare a muovermi già ora. Però chiedo un parere all'architetto Petrone. Sì. Allora, effettivamente è assolutamente così. Il soggetto principale, prioritario da contattare è il tecnico abilitato, è il professionista abilitato. Perché? Perché può già operare facendo uno studio di prefattibilità, quindi verifica innanzitutto gli aspetti e la regolarità urbanistica dell'immobile su cui si vogliono fare dei lavori, perché è importante sottolineare che tutti questi interventi che seguono il super bonus sono interventi di profonda riqualificazione dei condomini. L'obiettivo dello Stato è quello di migliorare notevolmente le prestazioni energetiche degli interi condomini e quindi vuol dire un intervento anche dal punto di vista edilizio, di titolo abilitativo da presentare abbastanza importante, che comunque si configura come ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello, per cui necessita una verifica della conformità degli aspetti urbanistici, successivamente una verifica, una diagnosi energetica degli edifici, capire quali sono le problematiche che determinano dei consumi elevati, individuare i corrispondenti interventi dove la priorità degli interventi è data sulla base di uno studio di fattibilità tecnico-economica, su una valutazione dei costi-benefici, quindi l'analisi e la diagnosi segue un iter ben preciso che il professionista che opera nel settore termotecnico conosce. E quindi successivamente presentare poi la domanda, il titolo abilitativo al comune, iniziare i lavori e quindi solo allora compare la figura dell'impresa. Ma il primo soggetto da contattare è il tecnico abilitato. A questo proposito il vostro sito può essere utile, anit.it, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico, possiamo trovare già lì anche un po' di indicazioni, mi pare. Assolutamente, noi come associazione contiamo quasi 3.000 liberi professionisti su tutto il territorio italiano che operano nel settore termotecnico, quindi che hanno competenza sull'edificio e l'impianto e che quindi sono il riferimento per operare in questo settore. Debora. Architetto Petrone, un aspetto molto importante della vostra attività riguarda le responsabilità che vi attribuisce non solo quest'ultimo provvedimento, ma diciamo anche tutte le norme pregresse legate al tema degli incentivi fiscali, appunto legati alle ristrutturazioni, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, appunto, delle nostre abitazioni, degli edifici nei quali abitiamo. Essere un tecnico che esegue una perizia su un immobile per poi stilarne la pagella energetica e quindi cercare di capire qual è il lavoro che va fatto per aumentare l'efficienza energetica, appunto, di un edificio, significa fare una perizia, sì, ma assumersi anche la responsabilità del lavoro che si fa. So che per voi questo è un aspetto molto delicato e a volte anche un po' sottovalutato da tanti sedicenti esperti della materia. Architetto. Allora, partiamo da un presupposto. La professione di ingegnere, architetto, periti, geometri che operano nel settore dell'edilizia è una professione carica di responsabilità e tutto l'iter legislativo che ha portato a caricare questa figura di responsabilità. È chiaro che con questo superbonus in particolare asseveriamo praticamente tutto, asseveriamo il rispetto dei requisiti minimi, asseveriamo il rispetto dei CAM e quindi dei criteri ambientali minimi per quelli che sono i materiali, asseveriamo il salto di due classi, tutto anche con sanzioni, con polizze assicurative che dovrebbero coprire, capaci di coprire queste responsabilità. Il concetto è non che il professionista non vuole assumerle, anzi lo abbiamo accettato nel momento in cui abbiamo deciso di fare questa professione, il concetto è avere dei riferimenti legislativi chiari, definiti, in modo tale che non ci sia spazio all'interpretazione e che il professionista possa operare serenamente. Operando serenamente opererà anche in qualità, quindi questo è importante, sapere che nel momento in cui si parte dallo studio di fattibilità fino a seguire i lavori, tutte le fasi dal progetto alla direzione lavori hanno delle responsabilità che devono essere anche riconosciute in termini di compensi necessariamente. Questi compensi che chiamo in causa Maria Chiara, però poi potranno tutti ambire a una sorta di complessivo tentativo di raggiungere l'ambito 110%? Assolutamente, questi compensi faranno parte del pacchetto, ammesso che si possa poi procedere con l'intervento. E qui ho assistito a un dibattito, guarda, di recente, Mauro, proprio sul fatto che ci si chiede nell'ambito professionale e dei professionisti se poi questo lavoro di diagnosi che viene anticipato, ammettendo che il lavoro poi non si porti a termine, non parta, possa essere remunerato o meno. E quindi chiaramente il committente che chiama un professionista lo dovrà pagare per il lavoro che viene fatto, però siamo in presenza di una comunicazione che ha raccontato all'utente finale che questo lavoro sarà gratuito dall'inizio alla fine, sarà coperto al 110%. Questo l'abbiamo, sì, hai ragione. Hai ragione, perché già ci è successo di chiedere anche in altre trasmissioni in cui ci siamo occupati del 110%. Attenzione, non è che funziona tutto in automatico, cioè ci sono dei passaggi di cui tener conto. Prego, Maria Chiara, scusami. No, e quindi esattamente, bisogna tener conto che nel momento in cui io sondo con un professionista, poi questo lavoro sarà coperto dal 110%, se il 110% si potrà attivare. Ci sono altri bonus, perché c'è anche un po' questa tendenza a dimenticare che l'Italia ha altri bonus, peraltro che con questo decreto rilancio fruiscono anche oggi della cessione del credito, quindi sono stati anche quelli in qualche modo incentivati. Non dobbiamo dimenticarci, perché questa è un po' la tendenza nazional popolare italiana, dimenticare in presenza della novità tutto quello che c'è in passato. L'Italia ha fatto già politiche per il sostegno all'edilizia importanti, notevoli, c'erano già dei bonus importanti per chi voleva ristrutturare, davvero risanare un condominio. La seconda cosa che vorrei dire, non dimentichiamoci veramente quello che dicevo, il ruolo del progettista, posto che tutti questi tecnici, certificatori, tutte queste figure, anche l'asseveratore stesso, altro non è che un professionista, quindi il ruolo della professione è fortemente chiamato a incidere su questo bonus e a progettare qualcosa che vada anche al di sopra di quello che viene chiesto dalla legge, perché siccome i fondi vengono messi in campo, davvero questa deve essere vista come un'occasione per andare un po' al di là di quello che è il minimo indispensabile. Grazie Maria Chiara, vi chiedo un attimo di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico. Due di denari. Cara Deborah, prima di salutare le nostre ospiti, sì, volevo chiedere una, sì, conferma ancora, perché forse nel cercare di fornire più informazioni poi anche noi rischiamo di mandare in confusione gli ascoltatori. Allora ci chiedono, scusate, ma allora il bonus vale solo per il condominio o anche per il singolo? No. Maria Chiara, vale anche per qualsiasi immobile singolo, che so, la villetta? Certo, vale anche per immobili singoli in determinate condizioni, perché non tutti gli immobili singoli rientrano, ma nella revisione della legge che è in corso hanno esteso, se non erro, anche alle seconde case bifamiliari. C'è un problema che vorrei segnalare, bisogna fare attenzione agli immobili con destinazione mista, perché su questo c'è una discussione in corso. Quando ci sono delle destinazioni importanti non residenziali, la norma parla di residenziale, e quindi su questo c'è ancora un punto da chiarire, credo. Quindi gli immobili, tu dici che potrebbero essere usati per più cose, ad esempio? Esattamente, non so, questo almeno dall'ultimo aggiornamento che ho io, perché ti ripeto, è ancora un percorso in itinere. Allora, e quindi Deborah, bisogna che qualcuno ci accompagni anche nel seguire l'evoluzione della norma fino a quando avremo la stesura definitiva. Un'ultima domanda all'architetto Petrone, visto che oggi è il mercoledì del lavoro, abbiamo elencato tante professioni legate, le abbiamo ribattezzate appunto le professioni del 110%, esperti di diagnosi energetica, i certificatori, architetti, ingegneri naturalmente, e poi i progettisti, termotecnici, direttori dei lavori, ma se dovesse architetto indicare in questo momento le professionalità assolutamente necessarie che devono migliorare anche la loro competenza, la loro prestazione professionale, visto che di prestazioni energetiche parliamo questa mattina, in questo momento di che cosa c'è particolarmente bisogno, così magari lanciamo anche qualche idea per chi è a caccia di opportunità professionale, ha una buona formazione di base ma naturalmente vorrebbe mettersi a disposizione di questa possibilità che si sta facendo adesso nel nostro paese. Sì, infatti essere architetto, ingegnere, perito geometra non significa necessariamente essere specializzato nel settore termotecnico, esatto. Quindi non c'è nessun obbligo dal punto di vista legislativo di dover istituire o prendere delle ulteriori accreditamenti dal punto di vista professionale, quindi tutto demandato alla formazione personale che poi il professionista va a fare nel corso della sua attività lavorativa. Però sottolineo che esistono delle norme tecniche che l'UNI ha messo a disposizione che sottolineano per esempio le competenze dell'energy auditor, che è una figura che può fare diagnosi in edilizia in maniera più approfondita seguendo un iter ben definito. Quindi non c'è nessuna obbligatorietà di avere questo tipo di titolo, però è sicuramente un ambito in cui è possibile formarsi e approfondire seguendo dei corsi che siano impostati proprio su come effettuare una diagnosi energetica ai sensi delle normative tecniche. Quindi i professionisti sanno che ci muoviamo in un ambito tutto regolamentato dalle normative tecniche, che sono volontarie ma sono dei riferimenti importanti per noi. Voglio sottolineare il fatto che in questi interventi del superbonus le figure professionali non saranno non necessariamente una singola, ma con molta probabilità ne saranno almeno due, perché se io devo da una parte verificare gli aspetti, la diagnosi, definire il progetto e poi seguire i lavori, quindi avrò progettista e direttore lavori che possono coincidere, ma necessariamente avrò il certificatore energetico che sarà necessariamente terzo, indipendente dal processo di progettazione, di direzione lavori, e che dovrà asseverare il famoso salto di due classi attraverso un'APE ante e post intervento. Ribadisco, l'APE è un atto pubblico, a valenza di atto pubblico, quindi nel momento in cui si firma si assumono delle responsabilità. Anche penali, certo, importanti. Architetto Petrone, dobbiamo salutarla perché è tardissimo, ma è tanto interessante il tutto e quindi sicuramente vi ricoinvolgeremo presto per riesplorare di nuovo questo tema che appassiona molto i nostri ascoltatori. E andiamo all'ultima parte della nostra puntata. Come ogni mercoledì, da un po' di tempo a questa parte, è in collegamento Roberto Bonzio, giornalista fondatore di Italiani di Frontiera. Buongiorno, bentornato. Buona giornata Mauro e buona giornata Deborah, saluto tutti gli ascoltatori. Che storie hai di ripartenza? Perché è un po' lo spirito, insomma, di questo spazio, Ne usciremo migliori, che è la tua nuova piattaforma, da italianidifrontiera.com. Che hai qualche storia di ripartenza interessante, di rinnovamento migliore? Io ho preso come parole chiave della vostra trasmissione il concetto della competenza e delle nuove professionalità. Quindi ci sono due contributi tra i tanti che sto raccogliendo in questa piattaforma che possono essere utili. Il primo è quello di Daria Magidi, che è imprenditrice, si definisce mamma digitale. Una riflessione su come sta cambiando e cambia appunto il mondo del lavoro. Chiaramente abbiamo una consapevolezza diversa e una ricerca di un equilibrio diverso. Con cosa vuol dire? Equilibrio ovviamente nel nostro rapporto con l'ambiente, forse anche un equilibrio diverso in campo politico. Le proteste antirazziste che in qualche modo si sono diffuse dagli Stati Uniti e tutto il mondo fanno un po' pensare che appunto ci sia bisogno di un cambiamento e di ricercare e pensare che questo cambiamento sia possibile. Il terzo, che è quello che sta più a cuore Daria, che è appunto un'innovatrice, è quello che le tecnologie possono rappresentare per l'imprenditoria femminile. E lei lavora da tempo su questo, è l'autrice di un libro che si chiama Donne 4.0. Le tecnologie non sono per le donne solo degli strumenti da utilizzare come utenti, ma sono uno strumento in più potenzialmente per affermarsi dal punto di vista professionale e quindi in qualche modo anche prospettare un nuovo equilibrio, un ruolo appunto, un nuovo equilibrio anche tra i sessi nel mondo del lavoro. Secondo contributo invece che vorrei suggerire è quello di Rossella Guido, che è specialista della comunicazione in bicocca. Che cosa ha procurato tutto questo shock che abbiamo vissuto con l'emergenza e che può essere positivo? Per il mondo dei ricercatori e della scienza sicuramente un'uscita dall'ambito accademico, ormai vediamo scienziati costantemente ai notiziari, in qualche modo un'opportunità per rimettersi in gioco anche, ma aprire un dialogo diverso con la società. Abbiamo visto che tutta questa emergenza ha rimesso in discussione il ruolo delle megalopoli e quindi vuol dire riguardare un modello diverso della nostra vita, del nostro rapporto con il territorio, ma anche questo sicuramente avrà una ripercussione sulle professioni. E urbanisti e architetti sicuramente da questa esperienza escono con una prospettiva diversa di quello che è il loro lavoro. Tutta questa emergenza ha rimesso in discussione il modello complessivo anche non solo della società ma anche di noi stessi, con delle opportunità che riguardano sia le aziende che le persone. Le aziende che hanno trattato prima temi non solo il telelavoro ma anche sono state più sensibili dal punto di vista dell'etica e dell'inclusione, quindi temi che riguardano un nuovo equilibrio, hanno fatto di questo, stanno facendo di questo veramente un importante valore competitivo. E per quel che riguarda invece le persone, semplicemente il fatto, per esempio, di aver usato in maniera, essere stati costretti a usare strumenti come il telelavoro, eccetera, anche per i ragazzi, magari a scuola, sicuramente diventerà un motivo competitivo in futuro. Sempre più ci sarà bisogno di aziende liquide, magari di aziende che hanno un centro, ma hanno persone che lavorano sparse per il territorio. Questo riguarda sia le aziende che le start-up. Aver imparato a usare questi strumenti diventerà un valore competitivo anche per i ragazzi. Grazie. Grazie a Roberto Bonzi, vi ricordiamo il suo sito italianidifrontiera.com. Deborah, domani io ho un impegno, devo andare a il valore della diversità nelle scelte di investimento. Bravo, allora investire informati io lo faccio da sola, ma almeno mandami qualche notizia, mi mandi un ospite? Adesso ci lavoro, eventi.salonedelrisparmio.com se volete saperne di più, e domani naturalmente con Deborah Rosciani, investire informati. A domani.